Oggi presentiamo un progetto davvero di vasta portata che verte su un tema fondamentale per noi, ma credo insomma a livello nazionale che finalmente si sia arrivati a dare un po' di luce alla condizione delle orfane e degli orfani di femminicidio, quindi quei bambini, bambine, ragazze e ragazze che perdono la madre. Sappiamo benissimo, non ho bisogno di darvi numeri perché ormai sono conosciuti, nella stragrande maggioranza dei casi la perdono ad opera del padre, di un familiare, insomma da persona conosciuta. La condizione delle orfane e degli orfani è stata a lungo in ombra, questo mi sento di poterlo dire, e poi invece con un profondo lavoro fatto molto da tante associazioni importanti a livello nazionale si è poi arrivati nel 2018 all'approvazione della legge numero 4, che è ancora insomma molto avanzata in Europa e che finalmente ha acceso una luce. Come fanno le leggi, cioè consentendo di solito la distribuzione di risorse che poi effettivamente portano a progetti come quello che noi presentiamo oggi. Il progetto, e mi scuso in anticipo se la pronuncia non è correttissima, è Orphan of Femicide Invisible Victim, cioè orfani di femminicidio vittime invisibili. È un progetto promosso dalla cooperativa Iside attraverso la partecipazione al bando a braccia aperte dell'impresa sociale con i bambini, che ha messo a disposizione insomma una somma molto ampia nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa. Si mira ovviamente, in linea con lo spirito della legge del 2018, ad approvare degli interventi integrati col coinvolgimento di diverse figure professionali per la presa in carico il più possibile tempestiva delle orfane e degli orfani e anche delle famiglie che sono le loro nuove famiglie, insomma i caregiver che subentrano. Facile immaginare la grandissima difficoltà di un momento drammatico nella vita di questi bambini e bambine, quindi con una anche un carico che va sostenuto, ovviamente. È dicevo un progetto molto vasto perché è un progetto della durata di 48 mesi, sappiamo essere quindi una durata proprio un po' fuori dai canoni, che interessa l'area del nord-est, opera in 5 regioni, che sono Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, e attraverso il coinvolgimento di 18 partner che sono distribuiti in realtà su 6 regioni e coinvolta, oltre a quelle che ho detto, anche la Campania. Con l'Università degli Studi Luigi Vanvitelli. È chiaro che sono state messe a confronto diverse, come dicevo prima, figure professionali, diverse discipline, perché c'è appunto la necessità anche di analizzare quelli che sono i bisogni delle orfane, degli orfani e delle loro nuove famiglie.